domani è a riposo, quindi riposiamo un po', ci noto di Amazzano, mi do più a pigiamare in regia a fare il caffè. Ci potrebbe vedere come a te. Ciao, ti buona cena, buon tutto, saluti a casa, vai, ciao anche a Roberto, vai tu. Via, ciao Muccolo, alla prossima, alla, ciao. E allora, l'Inter sta vincendo contro il Napoli, meglio così, sono contento. Sì, 3-2, ma sta pressando molto il Napoli. Sta giocando molto bene, E Dzeko si è sbattuto testa a testa col portiere del Napoli, ragazzi. Gli ho mai giammato, hanno giocato tutti e due con la banda in capo. Ma gli ha dato un rigore, no? L'altro rigore. No, il rigore gliel'ha dato quando il primo ha segnato prima l'Inter 1-0 sul rigore. Poi ha detto tutte le sue azioni, quei gol, sia il Napoli che l'Inter. Però si è sbattuto Dzeko su un contratto col portiere testa a testa. Ho capito. Se portiamolo via, sto cavolo, l'alimentatore. Fabrizio c'è. Ascoltami, ho trovato la resistenza, l'ho trovata, quella che ho messo, ne avevo comprato due. Vabbè, tanto domani faccio un salto, vado e me la compro, ci mancherebbe. Me lo porto via l'alimentatore e domani me lo... Perché cazzo, guarda il casino che fa, sì. Devo mettere il volume alto del baracchino. Dopo non ci va a cappelli. Così qui sono un bel fossi. Ma prima non era così. Vabbè, l'altra era rumorosa, Allora li avevo messo, siccome ne avevo due di questi, ne avevo un altro che mi aveva fatto Gio Maria. E mi stavano difettando che non facevo acquare nel baracchino. Ho detto, ma me lo compare giù nuovo, e questo qua lo me lo fa, è a posto. Solo che c'è questa pentola super veloce. Ma la mia la senti? No. Io qua la sento, però tu non la senti. È leggera. C'è anche la ventola della radio che è partita proprio adesso. Silenziosia, la ventola della radio io le lubrifico tantissimo. A volte quando seguo questa vannuta le apro e le do una lubrificata perché è molto importante. Mentre l'alimentatore che sarà neanche a un metro dalla radio, non si sente perché l'ho praticamente messo questa resistenza e rimane molto più silenziosa, capito? Io mi sto preparando che troppo vado a casa. Adesso vediamo se portarlo via, comunque vabbè che aspetto il coso, la ventola. Gappa. È vero che domenica oggi rientri. Adesso, ti piace questa modulazione? Sì, la bella, ultima radio. Aspetta, c'è cazzo, qualcosa, l'ho messa, non l'ho trovata. No, l'MC50, non so se lo conosci. È praticamente come l'MC60, però è senza preamplificazione. Fabio mi ha messo l'amplificazione, capito? Ha fatto un circuitino all'interno, è diventato un MC60, ma tanto buon paga. Ma vi già detto, l'ha modificato Fabrizio. Via, ne ha fatto un circuito di preamplificazione, è un microfono normale, l'MC50 è normale, come il 60 però è normale, non è amplificato, capito? E l'ha fatto diventare MC60, manco bomba. Bello, fai un attimo, arrivo subito, tanto tra un po' andrò via da qua, se ci sei dopo magari attacco a casa. Via, Lugarieri, non ti prometto niente perché mi hai fatto adesso... Mio genero, adesso ci mangiamo una cosetta, poi non so se dorme qua oggi, Bruno, non so. Va bene, infatti sono in salone, stanno discutendo, adesso vado anch'io, dai. Ok, bianco per me e ci aggiorniamo dopo, dai, ciao. Sì, ok, là. Bruttissimo, sei tutto... No Marco, ciao, buonasera, ben ascoltato, non te lo posso dire. E come l'altro giorno? A prima chitto, sì, come l'altro giorno? No, sei tutto... Non si capisce niente. Ma brutta Marco, brutta. l'altro giorno avevi trovato un sistema un po', insomma, andava benino, dai. Ma sempre l'818, come si chiama? Quindi quello che va bene, confermo. Questo è una canonata, questo va bene, a prescindere che il segnale va e viene, non ho capito perché, ma me l'avevi già spiegato, però questa è radio buona. Non c'è verso. Nulla, solo così fa, solo così, solo in questo modo, con questo sistema qua funziona. Ho provato oggi un po', che ci tento. Ma non c'è verso, non c'è verso. Questo qui è, devo dire che ti ricordi rispetto a come esce col suo microfono originale, per carità. No, questa è una radio buona, ma questo stai usando il sistema tuo. Ok, sto sempre usando l'818 con un microfono a condensatore di quelli tipo cuffia e con un preamplificatorino che serve qua per catalogo 18. Però quello che mi roda è che non si riesce a farlo andare col suo microfono originale, nonostante sia stato già tra l'altro modificato per migliorare. Infatti va benissimo in banda laterale, va bene anche in FM, ma qui in AM non c'è verso. No, l'operazione ultima, così ho capito quella che usi tu con cuffia e microfono, è ottima, è modulazione da K, modulazione tua, bella pimpante, medio alti, medio bassi, bella tonalità, ma l'altro fa veramente impressione. Però non c'è verso, non c'è verso. Vabbè, dai, vi lascio, dai, io intanto ancora, per me non è ancora pronto, c'è ancora una mezz'oretta da sferruttare qua se riesco a cavarne i piedi. Ci sentiamo, magari non so se dopo cena qualcuno entra, io qua continuo, adesso non c'è, e poi continuo a fare queste prove, devo risolvere, dai. Va bene, ciao anche a Luca, se c'è ancora Roberto, qualcun altro in ascolto, proseguo qua, dai, buona cena a tutti. No, io non devo cenare, mi avvicino un attimo a salone e c'ho gente, così stare un po' in compagnia, ma sono qua comunque, le radio sono accese, se hai bisogno di qualche altro controllo, Marco, chiamami, tanto ti sento, capito? Ah, ok, benissimo, grazie, a dopo, ciao Marco. Adesso vai bene Marco, vabbè, la chiudo pure io, ci sentiamo più dopo, se ci siete, che vado a prendermi l'autobus, ciao Marco, ciao Claudio, ciao. Ciao Lugo, sempre bene, forte e chiaro, ottimo, ma noi dal monte usciamo così, non c'è verso. Ciao Gabriele, a dopo. Allora, come si dice Marco, l'uomo del monte ha detto sì. Ora, come quando entravo, 3 anni fa, l'uomo del monte, chiudete, fate correttino, arrivato l'uomo del monte, siete assoluto. Sì, qua c'era ai tempi di Gianni Lunesole e un'altra banda di fuori di testa, da qualche volta anche Claudio, ma e anche Diabolica, quel pezzo di Diabolica. Ciao Lu, ciao, prendi il tram, se no tocca rimanere lì a dormire, ciao. Ciao Marco, da. Se ci siete a dopo, da. Ciao. Hai detto bene, abbiamo già parlato, erano altri tempi, si rileva e ci scherzava diversamente. Abbraccio a tutti i bermarosi, per carità. E io ti metto la portata di carciofo. Stai zitto, ma tocco, facciamo, vengo lì e te ne stacco l'antenna. Mica, se mi fai un piacere, almeno non lo stacco io. Fermati tu. Pure tu arrivi a piano terra da Andrea. Sveglia. Due. Io metto che con cucine su, gli tiro giù quella specie di antenna che c'ha, e tirando il capo piano piano, e lo tiro giù da Andrea a piano terra. Ti metto la canna a pesca domani, quando tanto Andrea ha aperto, a me lo prendi l'antenna. Va bene. Adesso richiudo qua, perché questo qui mi ha veramente rotto le i santissimi, non c'è verso. Questo lo lascio così, perché questo va bene così, ma l'altro niente da fare. Sto provando praticamente a utilizzare una versione col dinamico e l'altra col microfono a capsula condensatore. Ma non c'è verso, va solo quello dinamico non funziona, cioè non funziona, ma funziona male. Magari manda la canale, va bene, però in AM non lo va a fare. Vabbè, ciao Ciao a tutti, dai. Ciao Ale, ritirati che non sono andare in giro e sei anziano pure tu. Vai, che hanno già passato il brodino. Oh, mi sto bevendo un limoncello, se lo vuoi. Di quelli di Ospì. Acqua minerale al limone. Già buono, io prendo la sambuca, è buono lo stesso. Infatti già un giorno che non assaggio di quella roba, già. Né sambuca, né la mazzutti, né limoncello, che sia la radiglia. Birra al limone, leggera, e fa andare a fare la pipicca, ma quello ti fa fare veramente la pipicca. Fai 5 secondi, bevi quello e ti avete fatto in bagno. Ha rifrescato che c'è un bip multicolor. Bravo, dai, continuo qua, prima che mi chiami per la cena. A razione, il rancio serale, ciao. Ehi, ciao, questo è l'FM500 SQ. Da 4 canali, modificato. Va bene, ciao, buona cena. Vabbè, anche quello lì. Ormai cosa lo volete, ma fanno bene tutti lì, perché guarda, per quello che noi usiamo, un canale, due, tre, non di più, tutto il resto già parlo in PMR, ogni tanto mentre qualcuno di lì si fa vivo. E capo, ci usiamo pure tre canali oramai, si tocca ai tre canali. C'è il Snatch, tre canali, tutti tre canali, lo Zodiac, tre canali, tanto. Guarda, adesso metto anche un po' a posto, là, così pure, se ne voglio faccio un po' di radio, le altre qua. Adesso, ciao! Ciao, alla prossima, ciao! Roberto, mi senti Roberto? E chi è questo che chiama Roberto? Ciao Roger. Ciao Roberto, una cosa che voglio chiedere, ho appena acceso, quindi magari sto uscendo a chiamare. Una cosa che voglio chiedere, domani sei in officina, domani mattina? E certo che sì, se non succede niente di grave sì. Ah, speriamo, io sì. Ascolta, se ti porto il camper domani, me la daresti un'occhiata? Mi si è messa male la serratura della porta della cellula. Lo sai cos'è? Dare un'occhiata, sì, farlo non lo so, perché ne ho un altro ed occupa un bel di spazio quello che c'è di lì. Il problema è dove metterlo, se dovrei lasciarlo, siccome domani piove, dovrei metterlo dopo del cortile, però lavorare sotto il coso. Se non ti capo bene, passaci verso fine settimana, verso giovedì, magari ci sentiamo prima, vediamo un telefono, giovedì o venerdì, e tanto l'altro se ne deve andare. Ne avevo uno venerdì, lo stesso che ne abbiamo consegnato, un altro motorhom, non era grandissimo, però il problema è che sono molto ingombranti e ci bloccano il passaggio. Io capisco, perché mi devo inventare qualcosa, perché non chiudo la porta, se domani si piove mi entra acqua. Cosa mi si è rotto? Fammi capire, stavo parlando della cellula o dell'abitacolo? Cellula. Non ti si chiude, ma tu ce l'hai centralizzata la serratura? Sì. Cioè, come chiude la macchina, la gabbina, ti si chiude anche la cellula? No, non agganciano, nella porta ci sono i gancetti, quando io chiudo non girano per agganciarsi, capito? Agganciarsi ai così che... nel piantone della porta ci sono i blocchi, dopo agganciarsi i ganci e girarci per chiudere, non lo fanno. Allora fai una cosa, che siccome capita la battuta, stai parlando il battente, che non sia già chiusa la serratura, perché succede molte volte che magari è troppo veloce la chiusura, si chiude la serratura però non fa in tempo a agganciare. Controlla, verifica che non si sia chiusa la serratura prima di agganciare al battente. No, è aperta. Non so cosa sia successo, una la gancia, invece quella di sotto no, e quindi di conseguenza non mi chiude la porta. Allora, se vuoi passare di passaggio Vedere non mi costa niente, vieni quando vuoi domani mattina e la vediamo, però se bisogna aprire e fare qualcosa oggi sarà un problema. Vabbè, comunque passaci tu in ogni caso, sperando che non ne vale l'aria domani. Dimmi una cosa, hai provato con un cacciavite a chiuderla da fuori, senza cioè con la porta aperta, a chiudere il battente? Sì, sì, toccando i ganci della porta chiude, poi riapro normale e poi non richiude più. Dimmi una cosa, c'entrato il battente, c'entrato, non è che si sia allentato il battente della chiusura con l'attaccato al montante della chiusura della porta? Sì, ho capito. Come fa a allentarsi? Questo magari lo vedi tu, non lo so. Io non lo so, sono ammattito. Se non ci voleva questo. Sai che già si risolve, tu passa domani mattina, uno sguardo del genere non c'è problema a vederlo, se è una roba veloce veloce te la faccio, però se bisogna trattenerla è un problema. Ti ripeto, ne ho un altro in mezzo a ribirica, di questa qua non diciamo, cioè vabbè, adesso già è finito, ma di quelle che te lo lasciano in mezzo a ribirica, sì sì, se fosse stata una bella giornata, di quelle che gli viene la fretta quando va una bella giornata, poi ce l'usa a deposito, ce l'abbiamo già 2 settimane in mezzo a ribirica su gambe, per fesserie, perché poi mancavano dei pezzi e gli ho detto quando c'è i pezzi sì stanno arrivando, e invece non è arrivata solo la guarnizione e la cerniera di quella del coso dello sportello interno dell'armadietto interno, quello quando sollevi che ci blocca, quello non è arrivato. Infatti dico fa la cosa la porta di Ziru, che ci dà fastidio perché in mezzo ai piedi spazio ne abbiamo tanto, però è alto e non lo puoi far entrare sotto completamente, per quello devi mettere nella corsia della verniciatura, hai visto, poi c'è la verniciatura, deve rimanere di mezzo ai piedi, poi ogni giorno lo spugli, lo metti un po' di traverso per far passare le macchine, ma è sempre una ferratura. Comunque le oggi passa quando vuoi, non c'è problema. Ma poi allora domani mattina ci faccio un salto, poi mi dici se tu hai l'occhio più clinico del mio e mi dici se è rotto oppure si devo comprare qualcosa. Dai, ci vediamo domani mattina, c'è la fitte? Io ci sono dalle 8, vabbè, non venire alle 8 perché vado a prendere il panno, dalle 8 e un quarto in poi puoi venire, sino all'una, o dalle 2 e mezza del pomeriggio, e forse se non ti crea troppo problema, forse alle 2 e mezza è l'orario migliore, perché domani c'è Piazza dei Segni ed è un affaratore, passano tutte le macchine ed è tutto un macello, e normalmente il parcheggio non ce n'è, se invece vieni il primo pomeriggio alle 2 e mezza si trova qualcosa. Oggi intanto è una cosa veloce, te lo rendi conto subito di come apri e chiudi, tu sicuramente te ne rendi conto subito, intanto apri e chiudi, mi dici guarda che è così, vai tranquillo oppure c'è da cambiare e me ne vado subito. Sì, sì, magari è una fesseria, magari vogliono sincronizzare le due serrature, si è allentata, siccome hanno delle leve che comandano insieme, devono chiudere insieme, magari vuole registrata, può essere anche una fesseria, vediamo, se non lo vedo non ti posso dire niente oggi, vieni domani mattina se riesci a liberare, speriamo che non ne varia l'aria e lo guardiamo, poi se è roba complicata faccio in modo magari di fartelo chiudere e poi si vedrà il da farsi. Sì, grazie Roberto, vai. Ma ci vediamo una mattina, io come finisco a Sirena prendo e salgo. Sì, non ti preoccupare, c'è qualche lunato qua sul 10, io mi dicevo qua c'era Claudio, Gianfranco stava manipolando il computer e Tino, c'è qualche lunato, allora ti vuole entrare? Nisma, ma tu devi lavorare stanotte, Eugenio? No, io domani vado a Sirena, ora a Sirena e mi sbrigo molto veloce, quindi salgo qua, prendo il camper e salgo, verso le 9 sicuramente, capito? E comunque mi sentivi al camper, sì. Non ho capito cosa hai detto. Mi sentivi modulare al camper. Certo che ti sentivo, strano che tu non sentivi agli altri, solo a me sentivi. No, sentivo a te, a Fabrizio. Poi ho iniziato a sentire un po' Claudio. Fabrizio, se ti dico con quanto stavo uscendo, non ci credi. Ma Fabrizio sentivo bello forte. Fabrizio stava uscendo con 1400 watt. Che già credo che lo sentivo bello forte. Vabbè, comunque sentivo a te, a Fabrizio, poi ho iniziato a sentire a Claudio. A Claudio ho iniziato a sentirlo dopo i punti. Ehi, strano però, pensavo che lui arrivasse molto meglio di me, di Linardo. Comunque, non c'è problema, dai. Dove controllo il vetro sta prendendo colpi da me adesso, a parte di scherzo me la futti nuda, a me dove mi ascoltano, vabbè, se no pazienza. Luca, strano, anche Luca è abbastanza aperto per coso. In vicinanza era più vicino di me, a ripunto. Sì, ma Luca l'ho sentito, l'ho anche salutato. Va bene, vai, Luca, allora ci vede domani mattina, ok? Non ti preoccupare, cioè, ok. Hai già mangiato o devi mangiare? Come l'ho visto? Hai già mangiato? No, ragazzi, ho solo entrato a fare, adesso stavo maneggiando a vedere se riuscivo a chiudere questo cavolo di porta. Sono entrato poco fa, non ho fatto niente. Sono risalito per vedere così per chiamare, ti volevo anche chiamare al cellulare, ho detto al cellulare, ormai se c'è nessun radio, con radio glielo chiedo. Chiamami se c'è problema, certo se mi chiami a mezzanotte magari mi preoccupo, ma non ti preoccupare, oggi già siamo in buonissimi rapporti. Se per radio così lo chiamo per radio e via. Eia, no problema, aspetta vediamo se qualcuno è rimasto su questo canale, attenzione 10 che c'è. Ma non mette nessuno. Metto, ci faccio vedere a Cagliari, in giro. Ho 3 giorni liberi e mi sono andato a Cagliari con mia moglie. Ah, quindi non sei andato in giornata, pensavo stamattina andato e rientrato a tasca. No, negativo, da venerdì c'ero. Sì, così già va bene. Era bel tempo, venerdì e sabato hai trovato, no? Sì, bellissimo, anzi, di la verità, su venerdì sono andato alle terme di Sarda. E poi sabato mattina sono andato a Cagliari. Ok, diciamo ci vado abbastanza spesso, però sono andato 20 giorni fa più o meno, no forse di più fa, un mesetto fa ci sono andato e mi ho fatto proprio il giro dentro la città, ero da parecchio, però veramente passi a Cagliari e Tinale, ho detto io ci voglio girare al Poeto, tutto qua, anche quanto è cresciuta con la città, e metropolitana, proprio tutte le cose che vedeva sopraelevata, che non avevo viste, perché ero da un paio d'anni che non giravo bene a Cagliari, ma è cambiata totalmente. È una bella città, insomma c'era il Poeto in spiaggia, c'era un caldo bellissimo, c'era tutta la gente in acqua, bellissimo, bello. Hai visto che bello l'hanno fatto? Bari a Miami con la passeggiata del Poeto. È bello, il Poeto è bellissimo, tutti a piedi, una marea di gente, chi in pattini, chi in bici, chi a piedi, è bello, tutti i locali pieni, bellissimo. Infatti io quando sono andato era una giornata caldissima, era pieno, c'era il vento, quello devo dire, però era pieno di gente. Ottobre, quando sono andato, ai primi di ottobre, mi sembra una domenica cos'era? Insomma babbo era morto il 4, mi sembra che babbo è morto di lunedì sera, e la domenica precedente il 3 sono andato, ma era una bellissima, sembrava una giornata estiva, c'era solo un po' di vento, ma caldo, proprio caldo, mi sono andato a visitare una persona, e poi sono andato all'osservatorio astronomico che c'è di lì vicino, e allora ci facciamo un giro, ma sono andato in macchina, non col camper, e ti posso dire, mi è piaciuta Cagliari, non me l'aspettavo così bellina, l'avessero aggiustata. No, è bella, Cagliari è veramente bella, io sono innamorato di Cagliari, grande città, puoi fare tante locali, puoi fare quello che vuoi, bellissimo. A parte l'abitante. Vabbè. Scherzo naturalmente, come tutte le parti ci sono i belli, i brutti, i bravi e i cattivi, però la città è bella, posso dire niente da dire. A me mi dispiace di Sassari che abbiamo un centro storico stupendo che se lo sogna, Cagliari, tutto abbandonato, tutto rampato e tutto distrutto. No, non è più di Sassari, c'è il centro storico di Sassari e della gente in colore. È diventato un coso di tipo Chinatown, riferioghi così che vai nelle altre nazioni, un posto di extracomunitario, senza niente togliere, però non ci puoi più andare, prima andavi con la famiglia quando ero ragazzino, andavi tutto via università, piazza Tola, tutto, allora non v'è nulla, tutto negozi di pakistani, Bangladesh, nigeriani, senegalesi, eccetera eccetera, non parliamo giù tutto pieno di rumeni e cose varie. Vabbè, io ti saluto che devo andare a cenare, dai, che è pronto. Ci vediamo domani. Ok, grazie Roberto, c'è un amico. Ci sentiamo domani, ciao. Ok, no problema, ciao, buona cena. Buon tutto, ciao. Io rimango qua con Rex se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, sul 10. Faccio andare a mangiare. Ebbè fra, però ho già mangiato veloce, diciamo, relativamente veloce. Però c'era fame, quando c'hai fame mangi un po' più veloce. Capo. Ciao Eugenio, comunque dai, se è ancora d'accordo. Ho appena acceso. E prima c'erano Claudio, Fabrizio, Tino, Vannino, Eugenio, Luca, poi sono andato a mangiare e ho perso tutti, sono entrato adesso 5 minuti in aria. Capo, no io c'avevo gente e non sono potuto salire qua. E vabbè, infatti ancora sono a cenare, sto aspettando mia moglie che rientri e poi si cena. Stavo già la pappa pronta o la dovete preparare? Già è roba veloce. Ma tu sei anche tu come Claudio appassionato di cucina? No, non so cucinare un uovo. E allora come messi? Io l'uovo volevo stare attento anche a aprirlo perché sennò mi si spacca. Per dire, Eugenio, come me, tra tutti gli oggetti, io so fare benissimo il pane con la Nutella. Lui dice così. vabbè, non abbiamo imparato. Essendo lì sempre a casa, ha cucinato sempre lì e io non mi ho fatto niente. Io arrivavo stanco, facevo i turni e non ho mai imparato a cucinare niente. Ma io ti dico, è una cosa che proprio non mi piace, non mi interessa. Infatti gli odori, tutto quanto, a me nelle cucine quando sento l'odore mi passa la voglia di mangiare, quando passo nei ristoranti cerco di passare lontano dalle cucine. Perché mi nausea, è una cosa che non mi piace. Non è che non ci sia buono, proprio non mi piace il coso che magari se mi metto anche io posso imparare, però è una cosa assolutamente fuori dalle mie passioni, proprio non mi interessa. Sì, vabbè, i ristoranti, diciamo che i ristoranti buttano fuori degli odori perché l'olio che usano lo consumano al massimo, non è come noi che tutte le volte che cucini qualcosa lo usi una, due, massimo due volte e poi lo butti via. Sì, vai a McDonald's, l'odore si sente dalla strada quando fanno quel cazzo di patate. Una settimana, mi dillo a Claudio, faceva della figlia, una settimana, una mica mia, ogni settimana lo cambiavano l'olio, ma uno schifo, cotto, ricotto e ricotto ancora. Sì, ma quello puzza, perché poi alla fine quello che ti mangi c'è anche un coso di mangiando offeso, come non lo so come lo dici tu, arrasto queste cose così, se rimane in gola. Guarda, io a McDonald's se ci sono andato uno massimo due volte, ma forse anche troppo, perché proprio sono quelle cose che a me non piacciono. Mi ricordo quando ero più ragazzotto, se andavo in Piazza d'Italia c'era il Kenny, erano ancora all'inizio, le cose erano forse anche più buone, ma adesso quando io entro di dentro, mamma mia, me ne passa la voglia, solo l'odore che c'è. Sì, ma è così. A parte che prima era tutto diverso, vabbè, prima io da ragazzo quando uscivo e andavo lì a Sassari, lì quella via di fronte al grattacielo, in Piazza Castello, lì c'era quello che faceva la Fainé, faceva pizze, mangiavamo lì, mangiavamo sempre. Sì, ma adesso se ti vuoi prendere un panino vai da Renato in via Roma, che è numero uno dei panini, poi c'è il fratello Roberto via Napoli e ti fa dei bei panini buoni, sei sicuro che la roba è buona ed è fresca. Allora che cosa, io l'anno scorso sono andato a Olbia, allo Cian di Olbia, è arrivato un furgone del frigo, c'erano tutti i panini bianchi, tutti congelati, ma stracongelati, chissà quanti gradi sotto il vero erano, dei bustoni giganti pieni di questi panini piccolini tutti uguali, chissà da dove ne sono arrivati, nemmeno freschi di riportare. Lascia perdere che un giorno io lì a Cagliari stesso, alla uscita di Cagliari, siamo andati a mangiare e se siamo camminati ad andare, l'altro ragazzo tutto, io ho pagato e me ne sono andato perché faceva schifo, la roba da mangiare faceva schifo. Ma a me mi hanno impressionato i panini, sono arrivati un camion frigo pieno di panini, cattaste di panini, tutti tipo come ti portano le uova, tutti uguali, tutti precisi, chissà da dove ne sono arrivati. Non penso che li abbiamo fatti qua in Sardegna. Ma che in Sardegna, quelli arrivano, sai che da dove arrivano già pronti, quelli sono, fanno come fanno i cornetti, hai visto le cornetti nei bar, cose così, comprano i cornetti, ci sono anche Eurosteam, ci sono anche al Conad, ci sono congelati, poi tu lo metti nel forno, nel fornetto, ed è buono, però è sempre roba congelata. Sì, ma poi il pane, la cosa più brutta è il pane congelato, secondo per quanto è congelato da tanto tempo, non parliamo delle baguette, hai visto le baguette che arrivano congelate, poi le scaldano, durano qualche ora, dopo le mangi la sera e fanno schifo. vabbè, no, io di quella roba lì non è che ne mangio tanto, le baguette, diciamo, vogliono mangiate all'istante, quando sono belle croccate. Poi non servono più. Ma è tutto così, se tu vai a quella pizzeria che c'è allo Scialla, evita quella pizzeria sopra, che belle, tutte appetitose, le vedi quelle pizze, è tutta roba surgelata, rimangono nei condimenti che sono tutta roba scaldata, cioè congelata e riscaldata, e tu sei convinto che la facciano loro la pasta domani? Sai che non la fanno loro, che arriva così. Quella quelle pizzerie, quelle quadrate che sono grandi, pezzi grandi, quelle sono, le vendono da tutte le parti, loro le comprano già congelate, poi arrivano lì e te la mettono in forno, te la mettono, capito? Sì, fanno schifo, io un paio di volte ero andato, ma ho detto non ci vado più. Quell'olio qui schifoso, roba chissà che olio è, non è neanche olio d'oliva, sarà olio di semi di chissà che cosa, proprio olioso le mangiate, mamma mia. Ecco, io le pizzette, guarda, le mangiate buone, le mangiavo qua a Sorso, buone, perché si faceva la pasta si faceva, qua c'erano già pronto tutti i panetti, già pronti, si facevano le pizzette, a fare tagliate, quelle italiane, guarda, tutto fresco, era buonissima quella, era, e poi vedevi come la faceva, se la facevano avanti. Sì, sì, deve essere così, io vado e prendo spesso le pizzette, per comodità le prendo da Oggiano, esiste dal 73, da quando ero bambino, abitavo da mia nonna, la sera si andava lì, non dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana si prendevano le pizzette, il primo che le ha portate è stato Cocco a Sassari, adesso ce ne sono 20.000 di pizzerie al taglio, però la maggior parte le fanno al momento, le impasti, qualcuno magari le mette ancora in frigo, quelle indomani, ma le rimaste all'impasto lo fanno quasi tutti il giorno stesso, ma questa grande distribuzione è tutta roba chissà da dove arriva e quanto tempo c'ha. Capo, e infatti, ma per carità, non conviene, e già mi schifo a me qualche volta che vado al ristorante, per carità, perché non sai neanche cosa ti stanno dando, perché quando fanno la roba, la cucina, tutta quanta dentro, non vedi niente. Adesso bisogna stare attenti a dove si va. Ok, aspetta, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo, se c'è Gianfranco, se ha risolto un po'. Ci sei Gianfranco? Stava sistemando questo computer. Andiamo a te, Franco. Capo. Ma il computer per te. È quello che mi ha regalato Claudio, che poi avevo messo l'hard disk nuovo, però c'era qualche problemino con quelle chiavette, non riusciva a leggere, probabilmente c'era qualche problema. Il computer funzionava tutto perfettamente, però c'era qualche problemino con la scheda audio, infatti avevo messo una scheda audio esterna per interfacciarlo all'apparecchio per fare delle cose, dei metodi digitali, che è Gianfranco il numero uno di quel campo, molto preparato, soprattutto in ascolto, ma in trasmissione ce ne sono altri, però in ascolto Gianfranco è grande SWL. Ok, e stava provando, però c'era qualcosa che non andava, gli ho detto fai la cosa, portatelo via, anzi me l'ha chiesto lui per grande piacere, grande favore, e vediamo un po' di sistemarlo, speriamo bene, tanto è mettere il suo questo. Capo. Sì, sì, e se no ne prendi uno nuovo, ne prendi, noi costano mica tanto. Io ce l'avevo preso così quei vecchi computer, alla fine mi costava più a metterla a posto che a rifarne un altro. Sono andato da Media World e ne ho preso un altro fisso, due fissi, ne ho preso. E ce l'ho, adesso ce l'ho così 7 anni ed è sempre in gamba. Ma in casa ne abbiamo, a parte quello vecchio, là. Diciamo ci abbiamo 4 computer attivi, operativi, uno vabbè me l'ho preso in officina. Però volevo uno di questi vecchia generazione, diciamo, non vecchia generazione, di quelli fissi, non portatili, perché i monitor li ho messi in una stazione e in altro, ci sono due monitor e non ne voglio di più portatili, non mi piacciono perché mi coprono dove ci sono le radio, l'ho messo in alto il monitor col suo braccio, in modo che io me li guardo, e volevo una cosa fissa qui, eccetera eccetera, e soprattutto visto che c'è il discorso del radioamatore, deve avere tutti i collegamenti eccetera eccetera, dico mi dedico quel computer lì con tutta quella andare avanti, diciamo, nei primi collegamenti, il look di stazione, e poi mi piace anche ascoltare roba digitale, vedere, ho detto, così non rompimenti. Purtroppo sembrava tutto a posto e c'è stato qualche problemino che sono sicuro che Gianfranco, visto che è un grande maestro di computer, lo risolverà alla grande. Sì, perché se vedi che si riesce sempre a rimetterlo a posto, a rimetterlo in piedi, no, già se ne è capace già se lo mette in piedi quello lì. L'importante è che sia uno capace proprio di farlo, perché se un fanfarrone allora no, però Gianfranco, se se ci permette di fare una cosa del genere vuol dire lo sa fare. E il suo lavoro, lui lavora all'università, per cui se non lo sa fare lui, non lo so chi può sostituire. Figurati, e allora è competente abbastanza. Ci mancherebbe, ma poi abbiamo fatto tutto in remoto, online, l'ho visto quando una persona sa lavorare. Io ripeto, computer non ne capisco niente, mi lo posso accendere, qualche cagatina semplice, elementare, ma non è il campo mio, posso occuparmi di altre cose, ma proprio il computer non riesco ad adattarmi, faccio le cose elementari e basta. Diciamo quelle che mi servono, tutto il resto, non so come i ragazzi d'oggi, ci sono mie figlie giocando col computer o con i telefonini mi fanno 10-0, io mi intendo di altre cose. Bene, come c'è un altro, già lo credo. E tu Giuffra, cosa mi hai detto? Dove lavoravi? Non me lo ricordo, ogni volta te lo richiedo. Poi lavoravo all'Inike, però ha detto alla carico e scarico merci e più alla produzione interna. Ma c'è andata in pensione adesso? Sì. Sono 3 anni e 4 mesi c'è in pensione, una cosa del genere. Ma adesso sei carico di lavorare più che puoi e con tutti i soldi grandi che ti hanno dato fatti tutto come vai, non sto scherzando. Un cavolo me l'hanno dato. A noi, siccome noi cambiavamo società ogni tanto, ci liquidavano ogni tanto, poi alla fine l'ultima società sono durato poco perché poi me ne sono andato e mi hanno dato poco e niente. No, naturalmente sto scherzando, ci mancherebbe. Non sei un parlamentare per pigliare la pensione, lo so, siamo dei poveri operai, noi, o artigiani. Tanto che basta per vivere ci hanno dato. Non mi lamento, dai, non mi posso lamentare perché in pratica mi stanno dando quello che prendevo lavorando. Sì, e quello è già un successo, c'è gente che piglia 4 euro, dai, non più lire, non ce ne sono più. Ok, mi sembra se c'è qualcuno sotto, avanti che vanno a entrare. Ciao Mirko, ben sentito, compagnia mia e di Franco da Sorso. Avanti Franco, lo senti a Mirko? Sì, ho sentito. Ciao Mirko, buonasera, ben ascoltato. Franco da Sorso. Sono contento che arrivo anche ad Alghero. Avanti Roberto. Quanto ti arriva a te fra Mirko? Mirko, vieni avanti un attimo, che lo stavo guardando. 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3. Capa, mi arriva con una radio di 3 e un segnale di 2. Buonasera, niente, sono tornato perché fra un po' vado a cena. Ciao anche Mirko, buonasera. Sono rientrato, sono a Domo Pacca adesso, ciao anche a Franco, ciao a Roberto. Non so se Mirko mi ascolta, lo sento un po' basso, avanti Mirko. Sì, ti sento bene, sempre un bel segnale qua, un bel 7-8 addirittura. Cavolo, non so dove sei, comunque riprendi Roberto, ciao, riprendi. E Mirko è Alghero, no? Qua sta arrivando 9, Mirko supera anche il 9, no? L'ascolto sempre bene, non ci sono problemi. Tu riesci a sentirlo, Santiago te lo ascolti pure, come si chiama? Franco? Sì, c'ho un QRM, stasera non c'ho neanche appena di QRM, lo ascolto anche bene, lo ascolto. Guarda, poco fa c'era, allora stava salendo da Alghero, che a me dice, solo a me a Claudio sentiva da Alghero, quando era giù all'aeroporto, lui aveva 8 qua. E metto il QRM, io ho sempre il QRM alto, poi quando sono un po' abbassato il QRM lo tiravo fuori bene, poi come vabbè stava avvicinandosi, però io ce l'ho permanentemente il QRM oltre il 6, normalmente il 7. Buttatele via queste Mantova, buttatele via, prendetevi la G-Pol, vedi il QRM non è più, io ho 0 di QRM, a volte penso che la radio abbia qualche problema. Ciao Claudio, comunque, scusa non ti ho salutato poco fa, e ciao anche a Luca. Sì, io sto usando la Mantova, solo che non è tutti i giorni che trovi il QRM. Tu hai ragione, quella lì magari il QRM ce l'hai sempre 0, ma io di solito ce l'ho 0, sempre 0. Poi capita di giorno, cosa così si aumenta appena, QRM a 2, a 3, a volte anche a 5. Però stasera vedi, io sono 0-0, proprio bello pulito. Sì, ma anche quando piove io, quando quando piove, frate, è come un tolamanto, ma è un disastro, cioè 5 CD QRM, mentre con questa praticamente è zero, sempre zero, anche quando sta piovendo, quando sta diluviando, no? Si sente quel fruscio che fa, la mantova se lo porta dentro, questa no, ho capito, solo per quello. Ciao Mirko, anche a me mi arrivi quasi 9, 8, 8 e mezzo, insomma, abbondante. Va benissimo alla grande, non problema. Avanti Lucaria, ti devo fare una domanda, che ero al telefono con mio nipote, mi ha chiamato l'Alghero, però non devo uscire fuori, a meno che non ti chiami con l'altro telefono, se mi rispondi. Chiama Glam, c'è problema, chiama, chiama. Già ci spostiamo di canale, me lo dici qua. Magari me lo specifichi. No, no, vabbè, era una cosa, una domanda a livello personale che ti devo fare, capito? Ti chiamo col telefono di Anna, tu rispondimi, riprendilo, beh. Frega, ma perché non ti metti un'antenna passiva per i cellulari fuori, là? Così ti togli il problema di ricevere, eccetera. Ditemi cosa devo fare, l'ho detto anche a Gianfranco, perché io non voglio cambiare compagnia, mi trovo molto bene con la Vodafone. Però dentro casa prende o non prende, capito? Prende o non prende. Il telefono mi squilla, però devo uscire fuori per parlare. Capito. Ci sono delle antenne passive che ti fanno tipo un ripetitore, non sono neanche alimentate, e con quello ti migliora tantissimo il segnale. Lo usano giù a Platamona e tanti posti dove c'è il segnale strano, con quello migliori tanto. Che avanti? Sento pronto, pronto, mi sentite? Noi sentiamo, però come radio sei basso, non so se Marco, tu sei? Nove 10 abbondante, ma chi è Mirko? Tu sei? No, no, una voce di donna, ma arriva bassa bassa di radio. Non so chi è, bro. Arriva bassa bassa di radio. Vabbè, quando sono da te mi dici cosa devo fare, lo faccio, capito? La compro, non mi interessa, ma devo migliorare il segnale, perché altrimenti è un casino qua. Ogni volta d'estate va bene, so che sempre pure io, notte e giorno, ma d'inverno no, capito? C'è freddo, non posso stare a andare a rispondere, eccetera. Vabbè, devo fare una chiamata un attimo a Luca, devo chiedere una cosa personale. Già riprendo subito, vai fra. Capo. Va bene, vai. Vi saluto perché rientra tra mia moglie e vado a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Roberto, Mirko e a te Luca. Ci sentiamo per le prossimine. Roberto, riprendi e prova a girare. Ehi, ciao Franco, mi hai sentito quando vuoi. Sempre un piacere parlare con te. Vai Mirko. Franco, grazie per la chiacchierata. Infatti c'era qualcuno che cercava di chiamare, mi sentite? Chi è? Avanti chi chiama? Sì, ti ascolto, chi sei? Roberto da questa parte, 9-10, segnale da Radio 5, non è fortissima però ti ascolto bene, avanti. Avanti, chi è che ha detto mi sentite bene? Se ti vuoi presentare, comunque ripeto, Roberto qua da Sassa e poi c'è l'Alghero, c'è Mirko, c'era un attimo Claudio e Luca, chi sei, se vuol dire il nome? Cleopatra, ma sei nuova in frequenza, non ti ho mai sentito. Dove ti trovi qua a Sassa? Se vuol dire la zona, qua il segnale tuo supera i 9, un buon segnale, non so che condizioni di trasmissione hai, comunque ti ascolto bene, la radio non è fortissima, cioè la voce, si dice radio utilizzando i termini giusti, non è fortissima però è comprensibile. Campo sportivo, ce ne sono tanti campi sportivi, di che zona? Ma la Canoce parli? Scusa, ti ho parlato sopra, la Canoce intende o dove? Ah, a Puglia, siamo abbastanza vicini, io sono dall'altra parte del campo sportivo, ma sei macchina? Sei 9 più 5 in questo passaggio, probabilmente a me mi ascolti benissimo perché io sono vicino a dove sei tu. E poco fa c'era un altro camperista, c'era Eugenio che stava rientrando da Cagliari verso Porto Torres. Mirko, ascolti l'amica Cleopatra? E dicevi Cleopatra, vabbè se vuoi dire il nome è più facile, che mi trovo male. Di nome come ti chiami? Ma Leopardo o Cleopatra? Non ho capito. Leoparda? Non ho capito il nome. Allora ho capito bene Cleopatra, no ma dico il nome è vero, come ti chiami? Ok, non c'è problema. No, è più facile chiamare per nome, perché qua per i soprannomi non è... Anch'io ce l'ho un altro nominativo, però ci chiamiamo per nome per comodità, è più facile da ricordare. Dai. Ok, comunque ben sentita per la prima volta. Vediamo se è rientrato Claudio e Luca, così ti faccio salutare anche a loro. Claudio, ci sei? Luca? Sì, è roba, al telefono con Claudio, sì. E io quella ragazza la sento bassa. E dice che con un camper qua sta arrivando su tra 9:10, strano che sia così bassa, e mi ha detto vicino allo stadio dovrebbe arrivare 9:40 minimo, ma minimo. Ok, comunque si chiama Cleopatra di nominativo di CB e il nome suo è Maria. Vediamo se ti ha ascoltato. L'hai ascoltata Luca, Maria? Dai avanti Luca, dice non ti sente, prova a parlare. Sì, la sento bassa, mi ascolti Cleopatra? No, me la sento bassa, non c'è radio. Ma è strano che arrivi anche a me, qua arriva a 9:05, ma siamo lì di aria, se mi ha detto dove effettivamente è, siamo molto molto vicini. E dice che col camper, probabilmente con l'antenna non sta irradiando bene. Ok, e di nuovo, Mirko, tu riesci a ascoltarla comunque, Alghero? Robert, come ho detto, mi sentiva Mirko, per esempio io no, cavolo, è qua Zazzari, ha un problema sicuramente di cosa, di antenna. No, avevo capito che l'ascoltava Mirko, Santiago 2 e 3, allora mi ho capito male. Alghero ti ha chiamato, l'hai sentita? Ma una domanda, sei in movimento tu Maria o sei ferma? Perché il segnale passa da un segnale a un altro, adesso per dire hai superato il 9:10, sei quasi 9:15, e a me mi dovresti ascoltare benissimo se sei così vicina. E ora c'è qualche problema all'antenna, è impossibile tu dentro città che arrivi così bassa, cioè almeno a me siamo vicini, però dovresti arrivare a un segnale molto ma molto più forte a me, se mi confermi che sei vicino al palazzetto dello sport, perché io sono di lì in zona, diciamo, in Italia siamo abbastanza vicini. Poi c'è Luca che è al monte, anche lui dovrebbe arrivare bene. Luca, lo ascolti Maria? No, la sento bassa. No, ho chiesto a Maria se ascolta Luca, l'hai ascoltata Luca Maria? Troppo strana questa cosa, ma vedete c'è quell'antenna che non rende come dovrebbe rendere, perché è impossibile, cioè con queste vicinanze sembri che sei all'interno di in qualche zona, in qualche garage lontano da qua per arrivare così bassa. Ripeto, io ti ascolto perfettamente, però loro, per non ascoltarti loro, non è che sia molto lontano Luca da dove sei tu, in linea d'aria è abbastanza aperto. Mi dico vabbè, ad Alghero lui possiamo essere sicuri che sia un po' difficoltoso, ma strano, vediamo se rientrato Claudio, se ti ascolta Claudio. Ci sei Claudio? Claudio probabilmente è andato a mangiare, e vediamo se c'è qualche donato qua sul 10, avanti chi vuole entrare. Nulla, vai di nuovo a te Maria, vediamo un po' se riescono a tirarti fuori di nuovo. Vabbè, dai, ti saluto per la prima, speriamo in altre occasioni di risentirci magari anche in condizioni migliori, dai, perché così ti ascoltano anche gli altri. Ha salutato comunque Mirko e Luca ha salutato l'amica nuova entrata Maria. Vai Mirko. Ok, saluti a Maria lì da Mirko di Alghero, se si sente non lo so perché qua non si sente niente. Comunque Luca, l'unico che sentiva, e questo è un punto a favore, non per vantarmi, ci mancherebbe, e Eugenio l'unico che ascoltava ero io, quando stavo scendendo col camper, non sentiva neanche a Claudio, infatti mi è rimasto a bocca aperta, e poi Fabrizio naturalmente, perché Fabrizio ha fatto forse il record di segnale. Ma il problema era suo, perché eravamo molto vicini, io, cioè, per quella zona lì, ok, strano, avevamo problemi più di antenna, ma io non riceve bene. Sì, è normale, guarda, anche io quando avevo messo nel camper c'era un periodo stava andando bene, poi di colpo non funzionava più, nello stesso punto deve essere che non fanno bene massa queste antenne, non lo so, viene disturbato dal metallo della cellula, non lo so, ma di fatto che io è stato un periodo, l'avevo provato e funzionava, poi l'ho rimesso e non funzionava più, tutti cioè dovevo avvicinarmi sotto casa di Claudio per farmi sentire. Ma infatti proprio va su, capito? No, ci ci mancherebbe, già lo so che tu ti aspetto, ma sanno che non ascolti a Luca, Luca è molto più vicino di me e poi probabilmente per gli punti arriva anche meglio di me, invece dice no, no, sentivo solo a te, infatti gli ho detto, oh, qua arrivava 9, superava i 9 Eugenio. Non so che ti dicano, ma non so cosa dirti. Aspetta, una cosa dice sentire male, ma dice no, proprio non sentivo a nessuno, ho sentito solo a te e Fabrizio, Fabrizio stava uscendo con una centrale elettrica, è arrivato oltre 9,60, fatelo conto con cosa stava uscendo. Sì, vabbè, stava facendo delle prove. Stava provando il giocattolo, lo chiamano Gaetano loro, il coso, la bestiolina, ma che sto dicendo, superava il segnale di Claudio quando era attaccato me qua. E ti credo. Infatti, che cos'è questa cosa? Quando ho sentito questo segnale a superare il limite del 60 era sul DB, infatti ho detto che cacchio, qua qualcuno sotto casa, io pensavo fosse sotto casa mia, invece no, no, sono a casa, ho detto che a casa tua, e per quanto ne detto, siamo 1200, poi ho fatto la prova a 1400, gli ho detto, buh buh. Ma mi dice quando lui non fuma? Ti ho detto, ma hai contatto le mani, 4 kW e mezzo, se no non ce la fa a farlo alimentare una cosa del genere, perché se te ne segni a 1400 ne consuma almeno 2000, ma proprio volendoti bene la resa supererà i 2000 watt di assorbimento. Ah, ma più kilowatt in casa? Sì, c'ha 4 kW e mezzo, più c'è sempre una tolleranza del 10%, per cui 4 per 5, diciamo quasi 5 kW ne dà, però se c'è un apparecchio che ne dà 1000 di questi valvolari non assorbe meno di 2000 watt, perché il rendimento di questi apparecchi non arriva al 50%. Oh dai, io vado a mangiare, arrivava 9,50 qua, fatelo conto, più forte di Claudio, di Muros, mi arrivava più forte di tutti a 9,40, fatelo conto. Va bene ragazzi, dai, ci sentiamo, io vado a mangiare, a dopo se coincide, altrimenti ritenetevi tutti salutati, ciao ciao. Ehi, abbiamo chiamato qua, c'era una ragazza, una signora, dai, non lo so se era giovane o anziana, chiamiamo la signora perché non sappiamo l'età, in ogni caso è sempre signora, col campo di lì verso Piazza Lessini, sentiva solo a me, gli altri non li sentiva. Ma era 9,29, l'ho già sentita l'altro giorno io. Non mi ricordo com'è che si chiama, comunque di radio era molto bassa, segnale 9,20 era. Infatti volevo chiedere a te, ho detto, possibile che la senta solo, dice che Luca la sentiva piccolina piccolina, Alghero, vabbè lo sappiamo, è troppo lontano, ma era passata in radio anche qua, qua ne arrivava 9,10, 9,15. 9,20 era qua, l'ho già detto anche l'altra volta, ci ho già parlato, però l'altra volta usciva meglio di radio, non mi ricordo il nome, capito, 9,20 era qua. Sentiva solo a te, vuol dire va vedendo i loro due, io non lo va vedendo. Va bene, vai, ci aggiorniamo ragazzi, statemi bene, io vado a papai, ciao ciao. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo, buona pappa, dai, vai Luca. Sì, via, ciao Cla, io già sono ancora qua, dai. Aspetta un attimo, Robè, Bianco, per me che devo provare l'alimentatore, sei a posto. Oh Lu, ho fatto quella telefonata, la respirazione è stata bene. Te l'ho detto come funziona, no? Qualcosa in più c'è sempre, capito? Aspetta. Sì, vabbè, si arrangia, cacchi suoi sono. Dai, ci sentiamo, ciao Rob, riprendi. Ehi, ciao Cla. Vai Mirko. Ah, sì, ciao signori, qua mi sembra che la temperatura inizia già a scendere un pochino, adesso oggi si è abbassata parecchio rispetto a sabato, c'era caldo, una bella giornata, ieri anche venerdì ha fatto una bella giornata, oggi c'è anche molta umidità, diciamo, influisce anche quello con la temperatura, magari la temperatura è uguale, però l'umido la senti, percepisci di più. E dimmi un po', utilizzato là quell'apparato nuovo, Mirko? No, meglio mai, come si chiama, sempre meglio avere una cosa, un margine di sicurezza, più ce n'è meglio è quelli alimentati, così non li sovraccarichi, non scaldano, non si accendono ventole eccetera eccetera, se c'è, sempre che ci abbia la ventola. No, ero curioso di sentirlo come arrivavi con un apparato del genere, ma c'è anche il microfono in dotazione? Sì, c'è anche il microfono qua, ma non ho anche un altro giorno solo per vedere, l'ho attaccato, ci sei. È andato a mangiare Claudio. Sta facendo amico, ma è un microfono da palmo o amplificato? Microfono da palmo. Per vedere se spinge come modulazione con la radio, ce l'ho avuto anche io tempo fa, l'ho tolto a pochissimo, poi ha cambiato di mano, dai, comunque c'è qualcosa, qualcuno che la utilizza. Per me è una bella radio, io guarda, ti dico la verità, con quella con il giroscopio non ho avuto tempo neanche di cambiarmi l'LCD. Sì, che detto, c'è un Tektronics, non so da quanti, di che frequenza è, se c'ha le sonde eccetera eccetera, un Tektronics, stiamo parlando di una roba di altissima qualità e pregio. Ma vabbè, un Tektronics di quelli vecchi anni 98, mi sembra 96, 95, 99, e 60 mega di banda, già non si arriva mai. Diciamo 60 mega già con l'ultima parte frequente e a Puglia, cavolo, ti ha dato anche le sonde. Sì, sì, una sonda solo, sì. E allora va la grande, ma tu poi ce ne hai anche altri 10 di scoppi. Sì, ce ne ho, ce ne ho un altro, ce ne ho un ente, ce ne ho un single scoppi. Ma tubo LCD? No, tutti e due da attaccare al portatile. Ah, quelli di nuova generazione stai parlando, quelli digitali, dai. Sì, sì, quelli digitali, perché poi già gli occhi alla mia età già non vedo bene, figurati che le smette qua, figurati che devo andare a contare le tracce e calcolare tutte le frequenze, i tempi e basta. E che così alto, quanti anni c'hai, se lo puoi dire? Io 61. 71? 61. 61, ma ho capito bene, 61. Sì. Minchia, che sei vecchio, 61. Io sono 3 anni più piccolo, Claudio è più o meno quell'età lì, Gianfranco appena appena più grande di Claudio, siamo qualcuno più grande di te pure, non parliamo di Giulio, Natalino. Sì, vabbè, ma la vista è che me ne sento giù, per il resto fisico va bene. No, no, io grazie a Dio facendo le corna, io vedo perfettamente, magari qualcosina perdo a lunga distanza, ma da vicino vedo la punta dello spillo. Purtroppo per me no. La vista, purtroppo. Ma già, fisico va bene, almeno che la vogliamo fare in campagna di affresco, qua si sta bene anche l'inverno. Ma tu stai ancora lavorando o sei in pensione? È andato un paio di anni, mi sono però che è andato un paio di anni, almeno 3 anni e mezzo. Quest'estate ti faccio sognare, Mirko, ti faccio sognare che porto la gipola a 10 metri d'altezza. Oh, Claudio! Oh, yeah. Stavo dicendo, che era disperato tuo nipote, pensa che non dice i rubocani, perché sono lì per levarlo. No, levarlo a chi non ha i requisiti. No, non vuoi ni bugà, capito, non vuoi ni bugà. Non tocca a nessuno, non ti preoccupare. Non lo possono togliere, non lo possono togliere. Oramai è così e basta. Forse, vabbè, non certo lasceranno a vita, ma un altro anno, un altro paio d'anni lo lasciano. Non puoi, capito, toglierlo, se no come fa la gente. Adesso stanno revisionando le cose, a quanto ho letto io, per fare alcune modifiche, quindi ci vogliono dei requisiti ben precisi, capito, dei requisiti ben precisi, e sembra che vogliano inserire nei requisiti almeno 25-30 anni di contributi versati. Oh, se io c'è la Meloni in battaglia, poi l'altra, se non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque, guarda che sui vivoni là, a me, un po' come ne affutti. Sì, vabbè, non è che non me ne affutti, però, alla fine, già, tu lo sai che io mi arrangio, no? Ehi, affutendini, sono in minoranza, la Meloni e Salvini. Draghi ha già deciso, il governo Draghi ha già deciso, fino a quando rimane lui e 5 Stelle non si tocca nulla, assolutamente niente, perché, però devono fare delle modifiche, perché purtroppo ci sono troppi furbetti, quindi stanno facendo delle modifiche, stanno facendo dei controlli molto molto ben precisi e battuti, capito? E vogliono inserire almeno fino all'accompagnamento alla pensione per chi spetta, per altre per dire 2 anni, 3 anni non di più, almeno 25-30 anni di contributi versati, capito? Buona sapersi. Ma poi sono troppi furbi, Lu, effettivamente 8 milioni di euro hanno recuperato, sono 16 miliardi, meno 16 vuol dire lo Stato, 8 milioni di euro, a pieno di rumeni, con il reddito di cittadinanza, la certificazione falsa, che praticamente abitavano qua in Italia, invece percepivano reddito di cittadinanza con l'Italia e poi andavano di là e percepivano anche soldi lì, capito? Lavoravano lì. Un casino, questo peggio per loro, evidentemente hanno lavorato male. Adesso stanno iniziando a controllare, lo sai che a Sassari ne hanno già revocato 20, quindi sempre furbetti e gente che non rispettava. Quindi ben vengano questi controlli, però a chi spetta veramente la lasciano, no, non è un problema. Va bene, no, a me un nipote è grande, non è un ragazzino, ha cazzo quasi 50 anni, ha avuto un problema, penso che lo risolva, insomma. Avanti, Robè. Ciao Mirko, Santiago 9, che sto arrivando io, Mirko. Quanto ti arrivo io a te? Cioè tu a me mi arrivi Santiago 9. Ah, Claudio, sempre 9, sì, sto lì, è la modulazione sempre al 100%. Molto bene, molto bene. 20 watt, 40 modulati. Va bene, Sant'Anna è sempre strepitosa. Beh ragazzi, io vado a vedermi un po' di TV e niente, ok. Pesce coincide, se no a domani, ciao, passo e chiudo, vai Robè. Sì, anche io qualche minutino ancora e poi vado via, che sono stato, oggi ho fatto neanche un attimino di riposo, da stamattina presto quando mi sono alzato per trovare a Gianfranco, poi sono uscito, dopo ho mangiato, sono andato con la squadra, eccetera. Ok, buon tutto, Cla, dai, ci risentiamo se coincide domani. Vai Luca e poi Mirko. Sì, ah, ciao Cla, dai, già ci aggiorniamo, ciao. Avanti Mirko. Ciao, saluti Claudio, come quando la città c'era, la faccio sentire. Io quando ti arrivo ad Alghero, Mirko. Ah, che te, lo stesso segnale che c'è Claudio, 9-9, perché purtroppo questo è digitale, tutto per raccontare, non ho un esimente di quelli, diciamo, analogico. E sempre 9, quindi, modulazione sempre 100%. Ah, lo beh, 3-2 ha vinto l'Inter, ecco. Sì, l'ho seguita la partita, poi si sono tutti a pari, un mortiere, Ospina con Fecco. Io pensavo si fosse ammazzato, è rimasto secco in terra. Ha avuto un culo comunque. Ma chi? L'Inter? No. No, io la partita l'ho vista. Alla fine se faceva quel gol il poeta che si chiama Mertens, era un Eurogol, una cosa spettacolare, ha tirato al volo e ha sferrato l'incrocio dei pali a pochi metri, è arrivato un cross, ha tirato una fucilata, se faceva quel gol scendeva allo stadio, però anche l'Inter ha avuto delle occasioni, diciamo non ha rubato niente secondo me. Poteva rischiare di pareggiare il Napoli, però il risultato secondo me è giusto. Ho capito, mi scusi, comunque siamo a 28 punti. No, sono contento perché il Milan ha perso ieri, che partita sfigata, l'ho vista ieri, sono arrivato due gol, uno se l'ha fatto il portiere, proprio lì è sfuggita, e l'altro stava perdendo 3-0 il Milan, quelli hanno fatto tre tiri e boh, tre tiri tra cui quattro tiri, perché poi uno se l'ha fatto il portiere e l'altro gli aveva regalato il difensore, dribblando gli aveva inviato un pallone, il Milan sta perdendo 3-0, è riuscito ad arrivare 3-2, ma ha fatto delle parate col portiere di lì, ha detto adesso il Milan pareggia e poi vince. Fate un contropiede, io anziché restituirla al compagno se posso, ha preso il pallone, 4-2, e poi Ibrahimovic ne ha fatto un altro, 3 ne ha fatto. Ma ha vinto il Milan 4-3? Ha perso 4-3. Ragazzi, mio fratello a paraculo che è un milanista. Ma hai detto che ha vinto 4-3? No, ha perso, e oggi ha perso anche il Napoli, per cui non è cambiato niente, hanno guadagnato solo l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Adesso vediamo la Roma come va, stasera gioca contro Shevchenko, nuovo allenatore del Genoa. Bene, va bene. E la Juve devi fare ancora di vedi Coppa, basta. Comunque se lotta per il quarto posto, terzo o quarto posto, va benissimo. Secondo me finisce, non lo so, Milan e Inter, o Inter è prima, secondo il Milan o viceversa. Poi il terzo Napoli se non crolla, perché mi sa che sta già crollando, la Juve Atalanta. Vabbè, speriamo, almeno il quarto posto, il terzo o quarto posto ce lo devi giocare. Domani, martedì è bella, Juventus, cioè Chelsea-Juventus. Ha già perso il Chelsea con la Juventus. C'è 1-0, adesso se vince il Chelsea con più di un gol di scarto passa lui primo, perché la Juventus ha punteggio pieno, ha vinto, ha 12 punti, adesso c'è questo scontro diretto, se vince quello là passano a pari punti, però il Chelsea se fa più di un gol della Juve passa primo, per cui viene a testa di serie per il girone successivo, per le fasi a girone, a girone a scontro diretto. Non è cinta lei che ho già detto, basta con gli scuretti adesso, sono 3 anni. Quindi va bene così, un bel campionato quest'anno, almeno se la giocano le due milaniste, secondo me se la gioca Milan-Inter, Napoli, se non crolla il Napoli, se no passa l'Atalanta, che la Lazio manco a misericordia, l'ha crepata la Juve, la Lazio fuori casa. A me mi interessa la Champions, sta giocando benissimo in Champions, il punteggio pieno, speriamo sia l'anno buono, perché ecco la Champions, la rega di là, lo scuretto cos'è la rega nuda, comunque. Devono sempre giocare, però giocare, perché il terzo posto, il terzo o il quarto posto, se fa il terzo posto è meglio del quarto, perché al quarto puoi fare preliminare, un casino. Speriamo bene, ma le squadre di quest'anno sono fortissime, Milan e Inter sono, non ce n'è per nessuno. Il Napoli sì, sta giocando, ma è più forte l'Inter, il Milan del Napoli. Guarda, adesso la controprova domenica prossima c'è Napoli-Lazio e vediamo di che parte ha fatto, perché la Lazio ci ha detto avvelenata, ha perso 2-0 con la Juve, il Napoli ha perso con l'Inter, vediamo come va a finire, di lì ci rendiamo conto come è Napoli. Poi il Napoli bisogna tenere conto che c'è la Coppa d'Africa e perde 3 giocatori fondamentali, quello Koulibaly, l'altro come ti diciamo Osimhen e un altro giocatore, 3 giocatori che fanno la differenza in quella squadra. Vabbè, purtroppo le nazionali ci vanno, non lo so, però ti ripeto, la Juve ho visto un netto miglioramento del campionato, però non stanno puntando al campionato, stanno puntando più alla Champions, ma il fatto rimane che devono fare un terzo o un quarto posto almeno per entrare il prossimo anno in Champions. Se poi, non lo so, la palla è tonda, come dice Luca, fanno un terzo posto è meglio, e fa Milan, Inter, Juventus o Inter, Milan, Juventus. Secondo me il Napoli salta perché non sta giocando bene, secondo me, poi non lo so. Va bene ragazzi, io mi ritiro per deliberare, a frappè, ciao. Figa, già sono ora che ti sei andando, tu, ciao Cla. Io mi sento parlare, quindi intervengo ogni tanto, capito? La differenza è dove ero prima, nell'altra casa, e c'era la porta, il corridoio, eccetera, quindi non sentivo, ma qua essendo tutto open space, sento le radio, sono accesi, io sono nel salone e sento, capito? Ciao ragazzi. Sì, vai Mirko. Ciao Claudio. A Luca. Ciao Mirko. Ciao Claudio. Ciao, ci sentiamo, ci siete la serie di Luca, Claudio. Io mi chiamo Claudio, non Claudio, Claudio. Ah, Claudio, così. Ma Gianfranco, ho risentito se ho andato via. Avanti Gianfranco, ci sei? Sì, ci sono sempre, mi sto occupando di alcune cosette. Comunque mi sa che il processore audio è andato. Ma non è un gran problema, quello è, ormai con quelle chiavette sono anche migliori. Vabbè, ce l'abbiamo la chiavetta, mi sa, no? Sì, non c'è problema, ne ho 3 io. No, per il resto? Per il resto sto testando tanti programmi. Il driver l'ha riconosciuto, però va per i cacchi suoi. Come mai questa? C'è una logica? No, ciao Gianfranco, Robert, guarda che mi ha dato una cosa. Vediamo un po' se riesce a capirla, dai, perché la mia compagna non riesce a capirla questa cosa qua. Leggi e poi mi fa sapere, vediamo, io l'ho capita, vai. È una battuta, perché saliamo alle scuole e non tuteliamo gli ascensori. Ho capito che saliamo le scale perché ci sta, ma questo tuteliare l'ascensore non c'entra niente. È una battuta infatti. Sono tante di queste battutine strane. Cioè, perché l'ascensore si usa pure per salire, capito? Vabbè, non te la capisco. Io molte volte non le capisco queste cose, ma l'ho capita subito. Dimmi un po', vediamo Mico, ci sei ancora? Sì, signori, adesso però vi saluto perché vado a mangiare, il buono sta per scattare, così almeno mangiamo mangiamo un po' di cannelloni alla carne. Non ho capito l'altra parola, oh, adesso buone, mi piacciono. Frasta al forno numero uno, secondo posto cannelloni per i primi. Sì, sono pronti, così vado a mangiare, che già avete un po' di fame voi. Buon signori, vi saluto, a domani. Grazie per la bella chiacchierata. Ehi, ciao amico, ben sentito. Sempre un piacere. Dai, quando vuoi siamo qua. Vai Luca. Luca non c'è, Gianfranco è indaffarato. E mi sa che me ne vado anche io, che sono un po' stanchino. Dai, ciao di nuovo a tutti. Chiunque sia all'ascolto. Ciao Gianfranco. Ciao Luca. Mico, ho già salutato Claudio. E Gianfranco, ci aggiorniamo noi. Se c'è qualche novità ci sentiamo. Sì, ti dovevo dire una cosa, ma... no, non te lo posso dire qua, ecco. Fammi, o ti chiamo io, dimmi tu. Aspetta, ti chiamo io. Eia. Eia, dai, Robert, sono qua, io, dai, mi stavo... Mi stavo andando a volere il coso, e si stavo andando tutto, come si chiama, la saldatore e quant'altro, dai, sono qua. Vabbè, io stavo salutato Luca, dai, ho salutato, non c'era più nessuno, c'era amico, ha chiuso, ho chiuso anche io, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao Luca, buonanotte, ciao ciao. Eia, ciao Robert.